c'è qualcuno su 10? Me lo vedo. Chi è? Avanti. Santiago Nova, Radio 5, Franco. Franco California, buonasera. Un attimo, dai, che chiudo qua. Lavorano in questa maniera qua, capito? 4 volte, ma la questa radio è estrema, una, è molto bella perché c'è il canale a banda verticale. La seconda cosa è che c'ha due altoparlanti, uno a un fianco e uno all'altro, cioè dentro è nuova, nuova e immacolata. E c'è una ricezione da favola, perché praticamente ti sto ascoltando con due altoparlanti, capito? Sì, nel frattempo ti ho controllato anche su 500K a destra e a sinistra, quindi su tutta la 27, emissioni non ne hai, emissioni... mi hai capito, cioè ti sento centrato, ti sento proprio sul canale, non vai su altri canali a fare armoniche, quindi però per qualità è veramente un apparato molto molto pulito. Sei così in ricezione ci fa rimpiangere veramente il passato. Guarda, ti dico che è alla pari di un HF come ricezione, perché c'ha due altoparlanti, capito? Uno a destra e uno a sinistra, non me ne sono accorto, perché la stavo pulendo, ma non c'è niente da pulire, insomma, giusto lo straccetto, non ha un graffio, è molto molto bella, molto molto bella. Peccato che non ha il Mickey Gain, perché se avessi avuto il Mickey Gain, guarda, avrei attaccato l'antenna, avrei usato questa Vita Natural Durante per la ricezione che ha. Perché a me piace la modulazione un po' più spinta, però ascoltandomi in cuffie diciamo che non è male, dai, per essere una radio che non ha Mickey Gain, con un microfono lo stesso degli anni 70, sto usando un iGain, un microfono da tavolo dell'iGain, quindi connettore a 5 punte, perciò vedi tu, dovrebbe andare abbastanza bene, dai, ok, a te ancora Giaffra. Sì, tra l'altro ti fa una modulazione molto udibile, nel senso che sicuramente il 90% di Cipito tira che sta uscendo male, perché non è la tua modulazione, in effetti non è, riesce a regolarti la modulazione in maniera che sia ascoltabile anche per 10 ore, potrei rimanere ad ascoltarti anche fino a domani senza bisogno di regolare il volume senza qualcuno. Perché non è da poco, quindi se non devi castigare nessuno, è veramente è buona, molto orecchiabile, ecco il termine, è orecchiabile rispetto a quella prepotente che c'è di norma, dovuta essenzialmente al tipo di voce che hai. No, ma anche perché a relay, capito, quindi solito botto come fanno tante altre radio tipo questa, dai. Vabbè Gianfra, il microfono non è eccezionale, ti ripeto, è un microfono degli anni 70, della Gain, nuovissimo, di pacca, e praticamente sto usando questo perché c'è il connettore già pronto per questa radio, però adesso sono propenso a metterle o un MB più 5 o un TAN più 3, devo trovare, e così glielo collego, e sicuramente viaggia molto, ma molto molto di più, sicuramente viaggia molto di più. Però ti ripeto, l'interessante è che esce bene, ma c'ha, ti ripeto, una ricezione da paura. Io non avevo mai sentito una radio così vintage, con due altoparlanti, una a destra e una a sinistra, e avere questa ricezione veramente, veramente molto molto bella, pulita, ma soprattutto molto molto bella. Allora lo strumento mi dice anche un'altra cosa, che cioè picco positivo, perché il segnale, anche se leggermente, comunque si alza, quindi è tendenziale al positivo. Sì, ti ripeto, l'ho provata col wattimetro, sono poco più di 4 watt, capito? Poco più di 4 watt, per queste radio va più che bene, una 220, ma è che tu non hai il moto zappa, se no te l'avrei mandata. È veramente bella, è tua cromata davanti, e poi c'ha il cambio canali a bande verticali, capito? Non so se conosci il Pony 23 canali base. Sto completando una serie che avevo lasciato indietro. A me piacciono questo tipo di radio e questo è molto molto bello. Sto andando avanti, adesso sicuramente in settimana ne prenderò un'altra e vediamo un po', dai. Comunque questa era importante sapere se funzionava con questo microfono, perché con questi attacchi qua non ne ho altri, capito? Non ho adattato niente, proprio è proprio il suo, diciamo, non originale Pony, ma comunque degli anni della radio. A te ancora, Gianfra. Sì, adesso mentre parlavi ho avuto la sensazione che può essere un piatto o qualcosa del genere, no? Qualcuno, quindi evidentemente comunque forse capta anche da lontano, pur non essendo una radio amplificata, però ripeto, potrebbe essere un'impressione. Mi è sembrato di sentire un rumore di piatto, è possibile? Si conferma, sì, percepisce perché anch'io in cuffie sento in lontananza qualcosa, sì. Quindi immaginati tu se metti un microfono bello amplificato cosa ha fatto a radio. Adesso mi metto alla caccia, un bel Tarn più 3 direttamente da mettere le connessioni a 5, capito? Direttamente da mettere le connessioni a 5 punte e poi lo proviamo. E vediamo un po' se va meglio di questo, diciamo, dai. Sì, è mia moglie che sta manovrando in cucina, Gianfra. Ed è anche abbastanza lontana, eh. E allora c'è una forte riduzione del rumore. Perché se fosse, diciamo, come i soliti che usi, lo sai, no? Ho sempre detto, guarda, si sente la televisione, si sente una donna parlando, eccetera. E questa invece non ha dato fastidio, era solo un rumore che era sotto. Quindi a me mi piace molto come modulazione, infatti non ti conoscevo perché la tua è di norma molto, molto forte, al punto che tu figurati che su questo apparato non riesco, devo mettere volume zero, cioè non sento gli altri e sento a te. E poi mi tocca rialzarlo e quindi io lo preferisco. Poi ripeto, sicuramente troverai qualcuno che neanche ti conosce, però vedo che è bella, c'è poco da dire. Ma si sente quando pigio la portante questo relè, no? Perché io lo sento. Fammelo due volte. Sì, si sente, ma non in maniera prepotente, capito? Ci devo stare attento. Si sente un tac, tac. Però è molto basso, non dà fastidio. Proprio non dà nessunissimo fastidio. Quindi va bene. A me non credo che si senta perché relè non è. No, l'ho aperta per vedere come l'ha fatta dentro. Ti ripeto, nuova. E c'ha un relè. C'ha un relè di, non so se serve per i canali, ma non penso. Perché dove c'è dove ci sono tutti i quarti, le cose, no, non ho visto il relè. Proprio un relè dove c'è il, dove arriva il sistema PTT, capito? Lì. Infatti si sente. Vabbè, ti ripeto Gianfra, è importante che la radio funzioni, che sia funzionante, e ti ribadisco che c'ha una ricezione da favola, veramente molto molto interessante, molto molto bella. Sarà sicuramente il vintage che userò più spesso. Devo mettere un bel microfono perché deve andare meglio sicuramente di come sta andando, però come ricevitore penso che sia al top di tutte quelle che ho. Ma per me, io dico che è arrivata la radio già, quindi a me piace molto così, perché poi ripeto, fare ore e ore a parlare senza staccarti le orecchie. Poi soprattutto è molto pulita come missione, non c'è rumori strani, non c'è ambulanza che passano, uccelli che si sbattono alla finestra e cose del genere. Piuttosto hai detto quarti, ma cos'è tutta quartata di 23 più 23 quarti? Aspetta un attimo. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno? C'è Claudio e ci sono io. Ciao Gianni. Cucù, buonasera. Ciao Gianfranco, ciao Claudio. Tu più lungo a questa parte. E Claudio è un attimino, sta facendo qualcosa evidentemente. Scusa un attimo, c'ho il telefono, dillo anche a Claudio quando entra, che mi stanno chiamando. Aspetta Gianni un minuto. Ciao Gianni, buonasera. Dai, stavo ascoltando un video, grazie, grazie veramente di cuore a chi me l'ha mandato. Almeno mi sono ascoltato e sono più che convinto che va molto molto bene questa radio, dai. Non spinge tantissimo perché non ha il Mickey Game, ma comunque mettendole un bel microfono va molto bene. Ciao Gianni, buonasera, sto usando il Pony 23 canali col microfono della Gain, avanti. E la radio è chiara, non è, diciamo, non è amplificata, però è molto chiara, dai. È presente come radio. Magari dovrebbe avere un po' più di amplificazione, non lo so. Se dipende dal microfono non c'è una batteria scarica. No, no Gianni, ho messo le batterie nuove, no, e beh, non ha Mickey Gain, quindi ci vuole un microfono che spinga un po' di più, un Tarnet più 3, un MB più 5, questo è il microfono della Gain, quindi non è un grande microfono con grandi spinte, capito? Però ti ripeto, come ti ho già detto, sto usando questo perché il connettore qua era già fatto, era già pronto, e allora lasciamo questo, però è molto importante che la radio funzioni veramente bene, ha una ricezione da paura Gianni, lo dicevo a Gianfranco, ha due casse praticamente, due altoparlanti, una a destra e una a sinistra, è veramente eccezionale, una bellissima ricezione, ma bella, bella, bella, bella. Di stereofonia dice? Sì, ha due altoparlanti, io non ne ho mai visto di vintage, anzi il DAC ce li ha due altoparlanti, sì il DAC, una a destra e una a sinistra, però gli altri che insomma mi ricordo io non... ho visto sempre una colonnina esterna, capito? Questa ne ha due. Una a destra e una a sinistra. Dentro è immacolata. A dire che è nuova è una bugia a dirlo, veramente. Nuovissima, infatti non ho toccato niente io, Gianni, non ho toccato niente. Ho solo dato una pulitina al microfono perché gracchiava, faceva, come vedi adesso non gracchia, la modulazione. Diciamo che da microfono normale ho un po' di più, però è importante che la radio funzioni, dai. Poi vedremo di abbinarle un bel microfono un po' più potente. Sì, eccomi. Ma magari aumentando le radici dall'interno, un po' di più da qui. Magari c'è la radice chiusa. No, già no. C'ha molte resistenze variabili, io non sono maestro a fare queste cose, la radio è originale, la lascio originale, voglio prima provare con un altro tipo di microfono, adesso compro il connettore a 5 domani mattina, c'ho quello della Simpson che è un po' superiore, oppure compro un altro MB più 5, non me ne fotte niente, tutto qua, va bene, avanti Gianfranco, gappa. Sì. Purtroppo mi hanno chiamato, questi qua sto a rispondere, ma mi hanno chiuso il telefono, la massa che ne scenda, ma se avessi stemo io. Sì, volevo chiedere a Gianni, ma perché Gianni toccare streamer, eccetera, su una radio che è perfetta anche come spettro? Non mi dire che sta uscendo male, Claudio. Per me è perfetto, ascoltabilissimo. No, io glielo ho detto che la radio è chiarissima. Un telefono vuole che è più prepotente, io lo so, lo conosco come fa. Vuole la radio più prepotente, io gli ho detto, se la vuoi più prepotente magari appena la LC, ma non tanto, un po', in modo che la radio sia più forte, capito? E lui è così, non vuole, sbaglio Claudio. Beh, vorrei all'altezza dell'Inuit, all'altezza dell'Inte, che non una radio potentissima, ma Gianni, come dice Gianfranco, non conviene toccare niente, perché è un problema sicuramente microfonico, perché la radio non ha Mickey Gain, capito? Quindi ci vuole un microfono che spinga di più, questo è un microfono degli anni anni 70, Gianni. E anche questo è immacolato, è nuovissimo, ho mandato la foto, proprio anche bello di figura. Però ci vuole un tranne più 3 che dia quella spinta maggiore, un MB più 5 che ha un po' più di potenza. Capito? Un microfono che vada, questo è tutto originale il microfono, capsula originale, è tutto originale, quindi non si può toccare perché ha condensatore la capsula. Capito? Quindi niente. Va bene, va bene, va bene, dai, sono contento che comunque funzioni, poi per quanto riguarda la potenza microfonica si vedrà. Vedremo più avanti, ma è importante che la radio vada, dai, non c'è problema, è come che stia usando il microfono normale con un po' più chiaramente di spinta. Io ho sentito un audio video che mi hanno mandato e ringrazio ancora chi me l'ha mandato e sono molto molto soddisfatto della modulazione. No, ma va bene Claudio, per me va bene, solo che io so come si fa tutto e voi sempre le radio che pompano. A Gianfranco andrebbe bene lo stesso, con la radio così. Sì, ma va bene a chiunque, se non hai grandi, grandi pretese, Gianni, stiamo parlando di una radio degli anni 60, 68, 69, con un microfono degli anni 70, cioè, ma sentire la ricezione di questa radio è veramente una cosa indescrivibile, perché ti ascolto come che sei qua, come che sei qua, cioè a dire che ha una ricezione come un HF professionale, non ti sto dicendo una balla, è molto brutto dirlo però, capito? Ti ascolto veramente molto molto bene, ma aveva ragione anche Roberto. Aveva ragione Roberto quando ha detto che era bassa CD radio col suo microfono normale, però come ricevitore è eccezionale. Questa qui è quella che aveva Roberto? Sì, questa è quella che aveva Roberto, sì. Ah, ho capito, infatti me l'aveva mandata, che me l'aveva mandata. È bellina come radio, a me piace. No, è molto bella, è bella. È bella e insignificante, ha questi canali a bande verticali. Io questa radio l'ho avuta quando ero a casa di mia madre, forse nel 78, 77, 78. Mi piaceva tantissimo, però sai, chi aveva queste radio allora era un grande pregio. A me me l'avevano, praticamente, guarda, ti dico chi me l'aveva data. Me l'aveva data zio Paolino. Zio Paolino Occulto, e lui ci aveva comprato il Tenco 46 T. Sì, sì, ma parlo molto bene, io me la ricordo, io l'avevo vista a casa lì, e chi se lo ricorda come si chiamava quello lì. E vabbè, abitava nelle case del monte con le basse, facevano il turbino, adesso non mi ricordo più come si chiamava, però l'ho vista a casa sua. Tu con quanti watt stai uscendo? Con quanti l'apparecchio, 9 watt. 9 watt hai detto? Sì, a 9. Il tuo segnale è uguale a quello del cable, figurati, anche molto molto preciso come Schmitter, abbastanza visivo. No, sono contento Gianni, dai, sono contento perché funziona e come tu sai benissimo e ben mi conosci, io non voglio cose da mettere lì e non funzionanti, devono funzionare tutto. Questa base qua sono tutte funzionanti, sono tutte collegate, le radio non ce n'è neanche una che non funzioni, capito? E comunque adesso vediamo un po', domani mattina compro uno spinotto a 5 e poi facciamo il collegamento ad un altro microfono che ho, se non va bene compro uno spinotto a 5 e faccio il collegamento ad un altro microfono che è un po' più spinto di questo, e altrimenti mi metto alla caccia di un Tamer più 3 oppure compro un altro MB più 4, un altro MB più 5, adesso vediamo. Nel 93 compro la KBLI. Ma la Palmo? No, già. Sono tutti da tavolo qua, questa è la scrivania, il microfono invece tutti da tavolo, ognuno ha abbinato la sua radio come sto facendo, adesso c'è l'abbinamento qua al Pony, però c'ho il Perception che è molto bello, quello che ti ho mandato la foto, che spinge tantissimo quel microfono, perché anche quello io l'ho avuto su una radio, va bene. Quindi metto il connettore prima lì a 5, faccio mettere, non metto. Dopodiché vedo un po', se spinge quello lascio quello. Diversamente prenderò un MB più 5 o un Tarne più 3 per darle un po' una maggiore spinta. Guarda, se questa radio avesse avuto il Mickey Gain come ha l'Inuit, per me sarebbe stata la numero 1, avrei usato sempre questa, guarda. Dica, è un po' papiscio. Papiscio. E al telefono Gianfranco, già. Ehi. Allora, aspetta un attimo che io mi ricordo però che avevo un adattatore nel cassetto. Vediamo se è così. Possiamo provare un microfono che ho, quindi dovrebbe essere questo, uno degli MB più 5, che ha la connessione simile a questa. Aspetta un attimo che proviamo. Esce? Non ho capito. Sì, esce bene. Sta uscendo con le MP5, perché non vedo l'ancetta muoversi? Ora. Sta uscendo? Sì, ma questo qua che apparecchio. Sempre lo stesso con le MP5 e con l'adattatore però. Esce anche bene, un bel po'. Esce, hai visto che non è un problema di LC, te l'ho detto io. È un problema di microfono che è un microfono, insomma, degli anni 70, non è come l'MB più 5. Tra l'altro questo, l'MB più 5, è uno degli ultimi che avevo comprato, capito? Che è dello standard. Mi sono ricordato che c'è la stessa connessione così, a 5 punte, però cambia, allora gli ho messo l'adattatore. C'è Marco, sta giocando con te, sono diventati i Max. Non ti ho capito, scusa. Ria, ti ho detto che questo è il microfono dello standard, capito? 23 canali sempre. Che c'ha il connettore a 5 punte, però cambia la connessione. Allora ho dovuto mettere l'adattatore. Tu mi confermi che va bene, quindi. Perciò non prendo neanche, non metto neanche connessione ad altri microfoni. Compro un altro MB più 5 domani mattina a Fugiaro che ce l'ha con un connettore direttamente a 5 punte e faccio fare la connessione diretta. Rieccomi. Gianfra, guarda con l'MB più 5 e con l'adattatore. Dammi sempre i soliti due colpi di microfono e poi parla. Questo è l'MB più 5 perché voglio rendermi conto, sono in cuffia da paura, molto bella anche questa. MB più 5 con l'adattatore però, questo è il microfono dello standard, dello 80-24 dello standard, un vecchio vintage, lo stesso 23 canali, anzi, la pura verità non sono neanche 23 ma sono 22 perché manca il 22 alfa. Quindi non sono neanche 23 canali. La modulazione ti piace questa, non è tanto spinta ma è meglio dell'altra. Voglia che spinta, Claudio. Che spinta è come? Prova a metterci il microfono, quello che ho fatto io, per vedere come va. Aspetta, allora Claudio, la radio va ugualmente bene. È più forte di quella dell'altra. Più forte però più prepotente. Inizia a essere la tua, quella di Claudio Sparviero, torre di controllo per intenderci. L'altra era proprio da chiacchierata lunga, capito, tranquilla, chiarissima. Lo stesso, questa è più prepotente, quindi non aumentare oltre, perché sennò magari poi satura pure, guarda. Anche su questa, nonostante tutto, ti confermo la purezza dello spettro, quindi non vedo niente né su e né giù. Allora questo mi lusinga molto bene. No, Gianfranco, non devo aumentare niente perché non c'è niente da aumentare qua. non c'è assolutamente niente da aumentare, Mickey Gay non ne ha, non c'ha niente, quindi è solo una prova per capire, senza perdere tempo, ci andava bene l'MB più 5, domani mattina ne compro un altro, perché hanno tutti l'MB più 5 le radio, tranne appunto questa, il Pony, che c'ha le gain collegato, le gain. Ok, però metto quello, lo tolgo, so che funziona, probabilmente posso fare anche un cambio, mettere quello delle gain sullo standard, che va bene, devo solo invertire le connessioni, e quello dello standard metterlo qua, anziché spendere altri soldi, non lo so, adesso vediamo, dai. Comunque mi confermate che va bene e sono più che contento. Break, papà. Sì, buonasera a tutti, ho ascoltato a Claudio, a Gianfranco e a te Gianni, c'è qualcun altro? Penso di no, buonasera Roberto, ben sentito, dai. Ciao Roberto, buonasera, ben ascoltato, sto parlando col Poli 23 canali MB più 5. È forte, già si sente allora, eh? Sì, sì, va bene, va bene. Allora, la ricezione è da paura, Roberto, da paura perché c'ha due altoparlanti, c'ha due altoparlanti, una a destra e una a sinistra, veramente molto molto bella la ricezione. Ah, ma anche la radio già sta andando bene, come li hai messi i toni? I toni? Come si? I toni, questo ce l'ho sempre a un e mezzo. Ah, è forte comunque, ho detto, vedi, era solo abbinarci un bel microfono e la radio va bene, te l'ho detto. Aspetta, vabbè, ma veramente è eccezionale, eh? No, beh, non aumento, ce l'ho a 4 il microfono, figurati, non è al massimo. Va bene, sì, domani vado a Fuggiaro e ne prendo un altro, perché questo non è il suo, capito? Questo è dell'altra radio, dello standard che ho io. E quindi altrimenti mi rimane scoperta quella. Domani ne prendo un altro, MB più 5 e vediamo. Ok, il cambio per Gianfranco, a te K. Claudio, se vuoi ti faccio ascoltare, dato che mi sono liberato da quelli lì, c'ho in funzione il recorder, quindi ti ho già registrato, se vuoi te la mando. Sì, mandala, queste cose si possono fare qua, siamo in autorizzazione diretta, mandamela pure. Mi devo solo ricordare come si fa, un attimino. Oh, tutto bene, mi sono lavato la macchina ieri, perché tutta fangosa da quella arrampicata che mi ha fatto fare da Rini. E vabbè, dai, mi è dato un po' di fango, già rifatto di me. C'è qualcuno che vuole entrare, forse? Avanti, che vuole entrare. Senti con una risatina, chi era? Fatti un secondo di bianco, Gianfranco, fammi sentire la modulazione. Qualcuno non sta uscendo. Ottimo, sono contentissimo, va bene, sto parlando a, come parlo con l'MC60, più o meno 20 centimetri, 25 centimetri dal microfono, bello rilassato, quindi va più che bene. Grazie Gianfra, a te Gianni. Io non l'ho sentita. Cosa, la registrazione? Te l'ha mandata al telefono. No, l'ha mandata qua. Certo, ma tu dove sei? Sei con noi Gianni? Sei collegato? Magari io ci ho parlato sopra, sicuramente. Va bene, comunque se va bene. Io ti ho chiesto di metterci quell'altro MB più 5, quello che tu sai, per vedere se è ancora più forte. Ah, ok, sì, adesso lo cambio. Adesso cambio microfono. Questo è l'MB più 5, quello mio, adesso ci metto l'altro, vediamo un po', intanto faccio girare, avanti Roberto. Ok, no, ma sentito, qualcuno ha fatto una risatina, un segnale forte, non so chi sia, avanti che vuole entrare. Allora stava parlando Gianni, una risatina sotto, ho sentito, non lo so chi sia. Ok, riprendi tu Gianfra. Sì, ciao, ben ascoltato. Non ti ho salutato prima, sei entrato dopo. Per me è la solita sua radio, quella di prima, onestamente, per i miei gusti mi piace molto di più perché era più tranquilla, non era amplificata questa mania qua della M, dell'amplificazione. E quindi le dava la possibilità di parlare anche di notte, diciamo, senza bisogno che uno abbassasse di colpo o peggio mettesse le cuffie, tutto lì. Comunque, gustibus, niente, riprendi Gianni. Ma oggi Gianni non c'è proprio, eh. O non mi sente? Sì, che ti sento. Se non mi dai il tempo di rispondere. Claudio, hai fatto? Claudio sta ancora manipolando. Vediamo un po' come esce con l'altro microfono, che quello lì è, diciamo, rimane un po' modificato, magari c'è anche più forte per la completezza di Gianfranco. No, tu lo sai, io ascolto radio ad alti livelli sempre, ma a livelli veramente alti, e quindi quando dicono la radio è buona eccetera, a certe persone a me me ne scappa la risa, perché insomma io faccio uso radio in cui l'errore non è consentito, un parlo del popolo. Sì, vabbè, siamo speciali queste radio. No, sono radio serie, tutto lì, con gente che conosce le radio, non questi effetti strani così, capito? E io penso che tu non mi hai mai sentito, raramente, proprio quando c'era il microfono aperto, mi hai sentito con qualche rumore o con qualche cosa di strano. Ma di norma la mia radio è sempre stata costante, senza rumori di fondo e senza niente, almeno spesso. La cipolla. La vedo l'altra. Ah, vero? Mi piace più l'altra. Questo è l'altro MVP5, Gianni, questo è quello... quello che mi hai fatto avere tu, per capirci, dai. Buono, anche questo, molto buono. È più una Gina questa. Più una Gina? Sì, l'altra è più lineare come modulazione, questa rimane un po' una Gina. Buona, discreta, però è più fedele l'altra. Addirittura, allora, qua il tono però era... due, adesso ho messo uno, va meglio? Non ho notato differenza. Gianfranco? Lo sai che io non mi esprimo, preferisco che giudichi, che giudichi lo dai tu, dato che si può registrare, se vuoi ne faccio un'altra, fai un passaggio lunghetto e io se vuoi ti registro. Ok, no vabbè, i microfoni sono simili, cioè sono sempre delle MB+5, però chiaramente cambiano le capsule, non è che siano microfoni diversi. Ora io poc'anzi ti ho messo un MB+5 che è quello, ti ripeto, di una radio vintage, lo stesso dello standard, che in linea di massima è normale, i microfoni non c'è nessuna modifica né di capsula né di niente, mentre questo che sto usando adesso è un microfono modificato, nel senso MB+5 sempre, però è stata cambiata la capsula, quindi sicuramente ha un'altra dinamica, un altro tipo di modulazione eccetera. Io non sono in cuffia, non mi sto ascoltando, spero che insomma vada bene, dai. Sì, se vuoi ti rimando sempre il solito minuto. Vuoi? Sì, vai, hai piena autorità, vai. Sono simili, cioè sono sempre delle MB+5, però chiaramente cambiano le capsule, non è che siano microfoni diversi. Ora io poc'anzi ti ho messo un MB+5 che è quello, ti ripeto, di una radio vintage, lo stesso dello standard, che in linea di massima è normale, i microfoni non c'è nessuna modifica né di capsula né di niente, mentre questo che sto usando adesso è un microfono modificato, nel senso l'MV25 sempre, però è stata cambiata la capsula, quindi sicuramente è un'altra dinamica, un altro tipo di modulazione, eccetera. Io non sono in cuffia, non mi sto ascoltando, spero che insomma vada bene, dai. Sì, effettivamente Roberto ha l'orecchio molto fine. Sì, mi piace più l'altro microfono, quello non modificato. Questa spinge lo stesso, va bene, per carità, no, non ci sono problemi. Però quella là mi piace di più, Roberto. Sì, questa, tieni presente che la registrazione ti fa, non è fedele. La registrazione, rispetto a come la realtà, la registrazione sembrava un po' meglio, ti caricava meno acuti con la registrazione che ha fatto come si chiama, Gianfranco. Nella realtà non sei così fedele, diciamo, sei un pochettino, infatti ti migliora un pochettino, ti toglie un po' di quegli acuti, però se ti ascolti direttamente c'è una tonalità un po' più ricca di acuti, più citofonica, detto in parole povere. È chiara, comprensibile, però l'altra è un po' più neutra come coso, come modulazione. Ok, vabbè, ho messo i toni a due, vediamo un po' se magari è cambiato qualcosa, ce l'avevo uno, perché quello deve andare uno il tono su quella radio lì, perché quella viaggia sull'Intec e sul 3104. Avanti Gianni. Gianni si è perso. Ma anche niente di microfoni da provare, se c'è un tunnel o qualcosa sono sicuro col tunnel rendi ancora di più claro. Col tunnel non ce l'ho più. Devo mettere alla caccia adesso, ma comunque era importante, vabbè, senza toccare niente, senza fare nessuna modifica, che la radio funzioni e funzioni bene, ma io con l'esperienza che ho è chiaro che mi sono accorto subito che è un problema di microfono, perché uno è usare un iGain degli anni 70 e uno è usare un MB+5 di ultima generazione, tra l'altro questa è l'ultima serie a norma CE, perciò no, di sicuro non ci sono, non c'erano dubbi insomma, dai, di quello che stavo pensando io, capito? Avanti Gianfra, poi vai per Gianni, sei rientrato. Sì, sì. La registrazione Gianni è praticamente diretta, a differenza delle solite microfoniche. Questa prende il segnale direttamente dall'interno dell'apparato, quindi evita tutti gli stadi intermedi, quindi amplificatore, trick e track, lo prende direttamente dalla prima uscita F che trova. Quindi sì, qualche cosa in realtà la corregge, perché è pur sempre un apparato digitale ed è ricevuto da un registratore digitale, e quindi c'ha quel range che tende anche a fare una determinata correzione. Però come fedeltà poi stessa cosa anche per la trasmissione, ovviamente, perché è una trasmissione praticamente a livello di dati e lui la trasmette in analogico. Anche quello fa la sua correzione. Tutto di meglio di così non credo che si possa fare in AM, anche perché non è fatto per l'AM, è fatto per il digitale, per la trasmissione direttamente digitale. Tant'è vero che si può usare anche i vari sistemi, RTT, DMR, TripTrack, Tetra, eccetera, eccetera. Hai detto bene, quindi hai registrato un segnale analogico, l'hai convertito in digitale, per cui qualcosina cerca sempre di, comunque buona, la registrazione è più che buona, eccellente, solamente ti toglie anche, ci avrà dei filtri sicuramente, per cui ti dà delle modifiche leggere, per cui devo dire una cosa, la registrazione era meglio della realtà come qualità di coso, per cui l'hai corretto, qualche esaltazione di qualche tono l'hai corretto, comunque era meglio l'altra, vanno bene tutti e due per chi piace quel genere di modulazione, però la prima era un pochettino più naturale da parte mia, ascoltandoti con l'altoparlante esterno di, diciamo, di qualità discreta, non con l'altoparlante del baracchino. Ok, no, ma vabbè, accetto chiaramente, non sono critiche, ma sono appunto delle puntualizzazioni molto importanti per me, perché la mia cosa necessaria era capire, sapere se tramite voi e tramite anche, che ringrazio sempre, chi mi ha mandato i due audio video, appunto per sapere se devo prendere un tipo di questo microfono, un altro MB+5, o se devo andare direttamente su un Tarne+3, ma penso che vada bene anche un MB+5. Lo trovo subito, è nuovo, vado, lo compro e niente, metto la connessione diretta e ciccia, capito? E' bello che non fischia, non fa niente, vedi, vabbè, questo adattatore mi ricordavo di averlo e non averlo, pensavo di averlo prestato, invece era nel cassetto, me l'avevano restituito. Va bene, d'accordo, avanti Gianni. Io sto facendo con un'altra radio, non so se voi siete accorti, quando mi avete chiamato stavo facendo il cambio di radio, è per quello che non ho risposto subito. Roberto, avanti, questa ti piace? Sì, va bene Gianni, io vi devo lasciare ragazzi, dai, ci sentiamo magari in un altro momento, ciao a tutti, cuoriti da parte mia, ciao Gianni, Claudio e Gianfranco, alle prossime, ciao ciao. Ciao ciao Robe, ci ciao, sentiamo, buona serata. Andiamo bene, andiamo. Via Lucrezia Borgia. Avanti Lucrezia. Me lo fate salutare Roberto. Ciao Luca. Ciao Robè, dai, se coincide ci vediamo una mattina al caffettino. Avanti Gianfra per salutare Roberto. Sì, ciao Roberto, buona serata. Alle prossime. Devo dire una cosa, però me la sono dimenticato. Vabbè. Comunque a me piace sempre la prima era proprio ottima per me. Comunque anche con queste ti confermo nell'arco del mio range, che di circa un mega in basso e in alto, non ho visto niente, tutto tranquillo. Buono, vuol dire che non li hanno smanettate, sono originali le radio. E così deve essere, molto bene. Ok, allora il cambio per Luca, ciao, buonasera, bicicletta avanti. Luca, sì, ci entra, fate gallina e si innanda, boh. Avanti, sei proprio manicomio, sì, avanti già. Ehi, invece sta facendo cosa, c'è il cane che giocherellone, lì tanto deve dare una controllata, è normale che magari non possa rispondere. E quello ne combina tutti i colori, è molto vivace come cane. Beh dai, allora metto l'altro microfono, quello dello standard, che appunto mi avete detto che è un po' più performante, dai. Questo lo rimetto sull'Intec, sul 3104, ok, faccio il cambio, avanti Gianfra. Sì, aspetta qua, ecco, mi sono ricordato. Quello che hai nominato prima, l'MP5, è quello che c'ha quello strumentino con la lancetta. E poi quanto viene a costare più o meno? Guarda, allora l'MB+5 a me personalmente dovrebbe costare intorno ai 70 euro, ma a me me lo va sempre al solito prezzo, io ho sempre pagato 59. Ma è quello con lo strumentino? Sì, esatto, strumentino, regolazione di toni, è un microfono che qualità prezzo ti posso garantire che si adatta un po' a tutte le radio. Guarda, io ne ho uno col connettore a 8 del Kenwood, non fatto da me sicuramente, già comprato così, alimentazione diretta dalla radio, e se io te lo collego, ed è programmato, se io te lo collego tu non distingui l'MC60 da quel microfono, è veramente eccezionale. Ah, ho capito, perché non sapevo che c'era persona cazzata. Per adesso non mi serve perché ne ho 3 di microfoni a tavola, se faccio 4 poi non so neanche dove metterlo. Però mi è sempre piaciuto come forma, tutto lì. Ok, riprendi già. Vabbè, io invece c'ho il Sadelta che è buono come microfono, va molto bene Sadelta. Anche l'MB+5 è un buon microfono, dai. Andava bene anche l'altro, Claudio, credimi che anche se era un po' più leggermente come tonalità cambiava, però era bello lo stesso come modulazione. Andava, detto questo, rilascio tutta la tecla. Claudio, al telefono, ripeti tu Gianfranco. Sì, ero. Mi sono un attimino distratto perché sto facendo sempre due cose in una. Perché devo rinnovare, devo regalare un po' di soldi perché dicembre è tremendo, già lo sai, assicurazione, bollo, poi il bollo non funziona perché io faccio qualcosa tramite online, no, pagamento, nuova amministrazione, deve essere chissà perché è da davanti ieri tutto intasato, un casino. Boh. Io alle porte non ci voglio andare, anzi sono anni che non ci vado e non voglio andare neanche a fare altre forme di pagamento. Che palle, guarda. A gennaio e a febbraio l'assicurazione non è tanto, ma il bollo cazzo sono diventato 270 o qualcosa del genere. Ho cambiato microfono già, non ti potevo rispondere. Fai, che microfono avresti? Questo è sempre quello dello standard, sempre quello adattatore. Prima stavo usando l'altro MBP5, quello che mi hai fatto avere tu. No, non mi piace questo qua. Non mi piace Claudio, stai uscendo, non stai uscendo bene. Confermi anche tu Gianfra. Ora. Sembri in FM. Esagerato. In FM. No, a me diciamo mi piace un po' di meno sempre rispetto alla prima quando sei entrato. Perché c'è quell'amplificazione molto spinta questa. Già, allora stai ascoltando male tu, questo è il microfono che stavo usando. Frequenza Gianfra, mica non c'è orecchio proprio. E guarda che io qua ci ho collegato un frequenziato professionale, quindi so dove sto ascoltando. E in più c'ho anche l'analizzato di spettro, se permetti, se è fuori anche di un paio di hertz, se non accorgo subito. Oh già, cioè non puoi. Non bene qua comunque. Siamo ricevitori che è un apparato. Cambia radio Gianni. Io lo sento male. Io lo sento bene, ce l'ho attaccato a casa col 3009, figurati. Ciao, buonasera a tutti. Ho agganciato questo apparato qua. Anche perché dall'87 voi stavo dando i numeri l'altro giorno. Adesso ho agganciato questo, poi c'ho il cose, il Connex 4000 di qua. Comunque io ti sento benissimo qua, esci veramente chiaro, ebbene tu sei attaccato a me, chi dovrebbe sentirlo male sono io. Allora, io Gianni, anch'io ti sento, ciao Giulio, buonasera, Gianni anch'io ti sento un pochino saturo, io non ho toccato niente, questo è il microfono che praticamente stavo usando poco fa, non è che ho cambiato niente. Assolutamente. Ok, vediamo un po' se Giulio vuole rientrare. Per quello poc'anzi ti ho fatto una domanda, se eri attaccato, perché con questa radio, nonostante abbia una ricezione favolosa, ascolto tutti bene, a te ti sentivo leggermente un po' compresso, ho detto ma sarà, non lo so. Comunque così, dai, va bene, allora il cambio per Giulio, se vuoi entrare Giulio, altrimenti riprendi tu Gianfranco. Io che ho fatto solo una battuta, un consiglio a Gianni, quando ha detto che ti sentiva male, gli ho detto di cambiare radio, perché è lui che sente male. Ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Gianfranco. Avete considerato che siamo in tema di controlli radio eccetera, non so se puoi darmi un controllo visto che hai delle apparecchiature professionali a riguardo della mia radio. Avanti Gianfranco, con la buonasera. Sì, buonasera Giulio, ben ascoltato dopo tanto. Guarda, di radio sento una radio molto, come dire, abbattuta, il termine giusto, più che comprensibile ovviamente, però ti sento molto triste, più che un controllo è quasi una visita, e dal punto di vista spettrale mi sembra tutto in ordine, non vedo picchi strani, e niente, come segnale non ho fatto tempo a guardarlo, ma era intorno ai 9.10, 9.15, tenendo quella tua anche una donna abbastanza sfavorevole per la mia. Ti sento molto giù Giulio, e questo mi dispiace, confermi. Sì, diciamo che non sono molto in forma, dai Gianfra, anche perché stavo mollando sottovoce praticamente, per cui no, è un periodo che non ho voglia, la verità, non ho voglia di parlare al baracchino, mi limito ad ascoltare e basta, niente di più. vissuto lì. Vabbè, dai, comunque, grazie per il controllo. Quello che conta appunto lo spettro che tu mi hai appena detto, oppure il discorso umore, quello dipende da me. Non è un problema. Perlomeno non è un problema al momento. Sì, Claudio, io comunque devo essere d'accordo con quello che ha detto Gianfranco fino a questo momento. Se si deve fare una lunga chiacchierata, ad esempio un'ora, due ore, tre ore, in radio, anch'io sono del parere che la prima radio è la migliore in assoluto. Perché quella è una radio che non stancherà mai, anche se stai tutto il giorno ascoltando, mentre il resto va benissimo ugualmente, per carità, non c'è da dire niente, sono tutti i microfoni che hai provato, però bombardano. E allora, se devo essere sincero anch'io, preferisco ascoltare una radio calma come la prima che hai fatto, perché ripeto, è una radio riposante che ti consente di stare tutta la serata alla radio. Avanti Claudio. Ok, va bene, perfetto. Allora, no Giulio, ma era solo una prova e non è che assolutamente. Adesso rimettiamo il suo microfono e va bene così. Ok? Non c'è nessun problema, era giustamente per capire se dover comprare, perché cioè, l'MBP5 si può abbassare, non è che lo devi tenere a manetta, basta abbassarlo e va bene, capito? Ok, allora ricambio il microfono per Gianni. Avanti Gianni, riprendi. Scusa, dai, visto che Gianni non riprende, voglio spiegarmi meglio. Siccome le radio che sento non hanno la prepotenza della tua radio, io intendo quello, quando si fa un QSO con un certo periodo di tempo, un'ora, due ore, tre ore, quello che sarà, che c'è troppa differenza tra la tua radio e quella magari di altri, di tutte le altre persone. Anche Gianni ad esempio ha la mania della radio un pochino alta, tante volte infatti esce benissimo e sia ben chiaro, anche lui esce chiarissimo con 3009, è una radio favolosa, e anche con Galaxy, un po' meno con quello che stavo usando poc'anzi. Però anche lui ha la mania della radio molto alta, e questo secondo me è un discapito del QSO, secondo me, io la penso così. Praticamente confermo quello che ha detto Gianfranco, tutto lì. Vediamo se riprende Gianni. Avanti Gianni, vai Gianfranco. Sì, ci ha buttato la radio fuori dalla finestra. Niente, cosa dovevo dire? Sì, Claudio, ma Claudio conosce i miei gusti e io sono per la radio tranquilla. Tranquilla e chiara, ovviamente, più che comprensibile. Quella là mi ha addirittura fatto un'ottima impressione, perché era proprio come piace a me. Chiara, tranquilla e orecchiabile, ecco, come una bella canzone. Queste sono ugualmente chiare, niente da dire assolutamente, però hanno quel tono di prepotenza che, insomma, già mi ha capito anche Claudio cosa voglio dire, di potenza proprio, di notte ad esempio sarebbe un problema, ecco, ascoltarla, perché se sei in cuffia devi abbassare, alzare, e purtroppo nella maggioranza degli apparati non c'è un limitato del controllo del volume, ecco, sarebbe l'ideale, ti impedirebbe di essere assordato. Claudio, piuttosto ti volevo fare una domanda, te l'ho fatta prima, ma non so, siccome forse dal telefono non ho capito la risposta. Quell'apparato lì, c'ha in tutto, quindi sono 23, 46 quarti, così è, 46 quarti, quindi uno per ricezione e uno per trasmissione, è giusto? Ci conferma. Allora, ho rimesso il suo microfono, molto bene, questo microfono della Gain,